incompreso per la vita comune che mi impressiona, intrappolato nella paura dei miei pensieri e ragioni, cosa potrei provocare o cosa già provocato senza che nessuno l'abbia mai capito, da qui che prendo il sopravvento, amiche, amici, voi che ne sapete qualcosa in più di me, pensare prima a sé, che ne dici, un attimo prima dell'impatto farò uso della presenza del tuo corpo, per proteggermi dalla dura violenza dell'urto, un'arte studiata da pochi, vero, diabolico, vero, per tutti questi rocchi simbolici, vero, hai voluto un amico come lupo, un pene me l'astuto, sentirei che nelle strade delle mie immagini trovi la merda per la quale ne vado pazza, adesso di essa che sto in mezzo, un mondo fatto tanto per essere fatto, ma di fatto io tratto su di me trattando gli altri come me, salto quantico, salto tanti, così che passerò anche da te. Mostrami cammini liberi senza più vincoli, più limiti utili, dimmi tu dammi più strade da prendere, aiutami, illuminami. Mostrami cammini liberi senza più vincoli, più limiti utili, dimmi tu dammi più strade da prendere, aiutami. Logico, logico, semplice, vittima o finalmente complice, in cerca di esiti, siti nuovi per imporci, promossi a sfere prossime con successo, semantiche, antiche attimi, ma il perché di noi stessi che perso troppo spesso, tanto per parentesi, dato statistico medio, triste ballata del tedio, in due parole lito tetro, resta il mio credo, mezza parola per capire tutte le che si imponga, ma alla fine tutto il resto poi non conta, quando ci sostenta, ora tenta, uno sguardo dal basso si alza e mi affronta, sempre che ci ha capito tutto e si apposta, razio relico e basta, casi nico e basta, alimenta questa merda che sa niente, basta, alimenta questa merda che sa niente, basta, e se basta un solo gesto per capirlo, un altro per tradurlo, un altro per ridurlo, ora amo, urlo, odio e scrivo, incomunicabilmente vivo.